programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Eccoci qua con un po' di sole luminoso. Finalmente, in realtà, ha fatto parecchio caldo in questi giorni. Non ci sono più le mezze stagioni, ce lo siamo ripetute anche tutto quest'anno. E non ci sono non soltanto dal punto di vista meteorologico, ma anche perché? Perché torna a diffondersi il morbillo. Uno pensa al morbillo, insomma, un po' vecchia, poi adesso i bambini si vaccinano da un po' di tempo. Invece no, c'è stato un picco in Emilia-Romagna dall'inizio dell'anno e pare che appunto l'infezione colpisca maggiormente i bambini, gli adolescenti e i giovani che non sono vaccinati. Quindi più che un andare verso qualcosa che non c'è più, è in realtà un a volte ritornano, ecco, come nel caso del morbillo. Invece direi che non ci sono più le guardie penitenziarie di una volta. Almeno per quanto riguarda l'Argentina, perché pensate che in questi giorni avevano, perché c'è grossa mancanza di fondi, la crisi ha colpito un po' dappertutto, anche l'Argentina, i carceri argentini, non c'erano fondi per pagare il personale, insomma, quindi le guardie penitenziarie. Allora, che cosa è successo? Che idea straordinaria hanno avuto? Di mettere dei manichini al posto delle guardie. Allora, qualche carcerato, diciamo, un po' smaliziato, non è proprio gente così che gioca col Monopoli in genere, ha capito che erano dei manichini, ha preso e se n'è andato tranquillamente. Sono fuggiti diversi carcerati da questo penitenziario argentino. E allora che cosa hanno detto, intervistati, i dirigenti del carcere? Abbiamo usato dei palloni al posto delle facce, ci siamo ispirati a Tom Hanks in Castaway. Insomma, come dire che i film a volte confondono le menti, e qualcuno potrebbe dire le menti dei dementi. Ma fermiamoci qui su questi commenti sul fatto che non ci siano più le mezze stagioni, diciamocelo invece a proposito delle notizie della settimana. 800 24 00 24. Qual è stata secondo voi la notizia della settimana, o almeno quella su cui avete voglia di dire liberamente la vostra? Numero verde, quindi gratuito, 800 24 00 24. E come sempre mi faccio accompagnare da un opinionista estemporaneo. Ho il grande onore di presentarvi oggi, signore e signori, Sergio Rizzo. Eccoci. Sergio, che onore, inviato del Corriere della Sera, che è inviato in questo momento verso Ponza, poi ci racconterà un po' delle sue traversie. Sergio, sì, qui c'è un problemino, non so come dire. No, reggiamo finché possiamo con Sergio Rizzo, sì, che ha scritto numerosi saggi, tra i quali un best seller ormai, ha fatto la storia dell'inchiesta italiana La Casta con Gian Antonio Stella. Poi ha scritto La deriva, perché l'Italia rischia il naufragio, che mi sembra che sia stato un po' premonitore per il tuo caso, Sergio. Che adesso speriamo che non sia premonitore del mio viaggio. Ecco appunto, che stai per salpare per Ponza, ma mi pare che il mare sia un po' arrabbiato. No, sto tornando, diciamo, verso la terraferma, ma giusto perché siamo in linea con la trasmissione delle che non ci sono più le mezze stagioni. Improvvisamente si è levato un maestrale che ha costretto gli aliscafi a rimanere in porto, per cui diciamo il mare è un po' arrabbiatello, ecco. Che sono più cose da lago queste, no? Del vento improvvisamente che gira, giusto, invece adesso anche del mare. Quindi non ci sono più le mezze stagioni, ce lo conferma anche Sergio Rizzo, che è in navigazione e speriamo salpi sulla terraferma con assoluta integrità. Sergio, tra l'altro, volevo farti una domanda di grande importanza. Tu sai nuotare? Sì, abbastanza bene, devo dire. Non ho grande fiato, però insomma. Mi rassicura, Sergio. Quindi teniamo attenzione, monitoriamo Sergio, che insomma non vada giù in tutti i sensi e rimanga con noi, anche perché volevo farvi parlare, oltre che poi commenterà le notizie della settimana insieme a voi, ascoltatrici e ascoltatori, anche del suo ultimo libro, il suo ultimo saggio, La Cricca. Guarda un po', La Cricca, di grandissima attualità, sottotitolo Perché la Repubblica Italiana è fondata sul conflitto di interessi, pubblicato da Rizzoli. E scrive, fra le altre cose, Sergio Rizzo, che quando si nomina il conflitto di interessi, il pensiero corre immediatamente a Silvio Berlusconi, al suo strapotere televisivo, le leggi a personam, dice, ma Berlusconi, scrive Rizzo, è solo l'ultimo erede di un sistema consolidato che coinvolge tutti, politici, professionisti, manager, sportivi, giornalisti. Tira dentro tutti Sergio e dice che lo scandalo che ha coinvolto i vertici della protezione civile ha acceso i riflettori su un gruppo di affaristi, imprenditori, magistrati, funzionari, familiari di una compagnia male assortita che gestiva appalti pubblici in un micidiale coacervo di conflitti di interesse. Sono per lo più pensionati o anche un po' più in attività, Sergio? No, sono tutti in attività, anzi, molti di questi signori erano alquanto giovani. C'è da dire che avevano dei consiglieri un po' più attempati, ma questo fa parte hanno più esperienza i saggi, ecco. Sergio, e quindi per fare andare al cuore, io già un po' l'ho spiegato, no? Il centro, il fuoco del tuo ultimo libro d'inchiesta. Ma, mi pare corposo. Sì, diciamo che quando ho cominciato a lavorarci, già un po' lo sapevo come buttava, perché avevo già avuto modo di imbattermi in moltissime di queste vicende. Poi a un certo punto è decollata questa vicenda della cosiddetta cricca. Allora a quel punto lì si è capito una cosa, cioè si è capito cosa può diventare un paese nel quale non si stabiliscono delle regole che impediscano che un funzionario pubblico, invece di fare gli affari nostri, faccia gli affari suoi, perché di fondo questa è la chiave. E poi magari mettendo in mezzo altri affaristi che fanno gli affari propri invece di fare gli affari nostri. Il caso del G8 La Maddalena è un caso clamoroso da questo punto di vista, perché lì viene fuori con tutta evidenza che a cosa servono certe opere pubbliche, a che cosa servono certi appalti, come funziona il meccanismo per cui una cosa che deve costare X costa X per 2, per esempio. E come tutto questo sia perfettamente legale, no? Come tutto questo sia perfettamente già previsto dalle norme. Ci stupiamo poi alla fine che un'opera pubblica in Italia costa il triplo che non in Francia o in Spagna, insomma, no? Nel contratto del G8, sì, delle opere del G8 della Maddalena, c'era una cosa fantastica di cui si è accorto uno dei progettisti che non era coinvolto nella cosiddetta cricca, e cioè che il contratto prevedeva una maggiorazione automatica applicabile di quasi il 60% sull'importo della gara, perché la Maddalena è un'isola. Quindi, ma la cosa sensazionale è che quando hanno fatto la gara, perché una gara formalmente hanno fatto per attribuire quei lavori, e voglio dire, le offerte sono state fatte sulla base di un prezzo che era il prezzo dell'isola, per cui hanno fatto una gara per andare a fare un'opera su un'isola, dopodiché fanno un contratto e sul contratto c'è scritto che quei prezzi possono essere aumentati al 60% perché la Maddalena è un'isola. Che un'isola quindi significa che è una cosa a sé stante, quindi ha delle regole a sé stante, oppure che è difficile raggiungerla? Qual è il problema? È come se venisse in qualche modo raddoppiato il prezzo del disagio, no? Ecco, a quel punto, quando un affarista, io mi rifiuto di chiamarli imprenditori, guardate, non mi piace proprio definirli imprenditori, quando un affarista mette le mani su una cosa del genere, è chiaro che ha tanto grasso poi da distribuire, oltre al proprio profitto, al proprio legittimo profitto, no? E in questo grasso prospera facilmente tutto il malaffare che purtroppo sta venendo fuori, ecco. 800 24 00 24, questo è in sintesi quello che racconta Sergio Rizzo nella cricca, il suo ultimo libro. Ma senti, a proposito appunto di P3, o qualcuno dice il nuovo P2, secondo te la domanda tormentone, quest'ultimo periodo, esiste davvero questa nuova P2 o sono veramente quattro sfigati pensionati che si sono messi insieme? Addirittura Libero oggi, nel sottotitolo "Giudici al mare paga la P3", li definisce uno dei tre lombardi, lo definisce uno dei tre Pirla arrestati, tipicamente nordico Pirla. Che dici tu? Ma finché le indagini non sono concluse, non ci danno un quadro completo, penso che sia un po' complicato definire una loggia, non una loggia, eccetera, eccetera. Certamente quello che viene fuori però è sconcertante. La cosa sconcertante, secondo me, è che alcuni di questi protagonisti di queste vicende si sono dichiarati nullatenenti. Non so se lo sapete, non so se avete letto i giornali qualche giorno fa. C'è stato uno di questi, diciamo, celebri ormai personaggi che sono comparsi più volte nelle cronache, che è finito addirittura in carcere in questa occasione, Flavio Carboni, sì, che si è dichiarato nullatenente. Ha detto: io non ho beni patrimoniali, ai magistrati. E dopodiché abbiamo scoperto che effettivamente Carboni non presentava la denuncia dei redditi dal 1800. Senti, ma diciamo che è un vizio un po' italico questo. Sono molti quelli che sembrerebbe che non abbiano nulla e poi dopo li vedi viaggiare con dei yacht che arrivano praticamente dalla Corsica alla Toscana. La domanda che uno si deve fare com'è possibile? Com'è che possibile? Diciamo una persona così all'onore delle, che più volte all'attenzione dell'onore delle cronache per fatti diciamo che hanno a che fare con tanto denaro Non abbia nulla, non sia mai stato, come dire, tenuto sotto controllo in qualche modo dal fisco, forse alle mani bucate, può darsi. Io credo che in America un personaggio del genere diciamo non fosse altro per la sua conclamata diciamo grande facoltosità, diciamo così, no? Dovrebbe essere stato in qualche modo attenzionato, no? Facciamogli attenzione, ecco, almeno questo. Ecco, invece, evidentemente no. Senti Sergio, intanto ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori, se vogliono commentare, visto che poi il libro di Sergio Rizzo è proprio strettamente legato ai fatti di questi giorni, 800 24 00 24, oppure qualsiasi notizia della settimana sulla quale vogliate dire la vostra. Ti volevo chiedere, un po' legata a queste inchieste, alle intercettazioni eccetera, Sergio, è venuto fuori anche il nome di Formigoni, però tutto ancora da appurare, no? Sembrava, secondo gli inquirenti, che usasse delle parole in codice tipo passeggiate e mozzarelle, però Formigoni ha detto, guardate che le passeggiate, le mozzarelle, non è che c'è del cacio in Danimarca secondo te? Ma no, ma io direi aspettiamo, guardate, cioè non si può arrivare a delle conclusioni, cioè le indagini quando sono indagini devono essere concluse prima di poter dire qualche cosa, non si può mettere la croce addosso a una persona soltanto perché c'è una dichiarazione, un frammento. O parla di mozzarelle, insomma, mozzarelle blu, magari nelle mozzarelle blu, sono d'accordo. Dico, aspettiamo, non, io direi aspettiamo, ecco. Sergio, da fare, no? Allora, prima, tra pochissimo, come sempre, per avere più punti di vista, ci collegheremo anche con un altro pianeta. Ma su, per esempio, la questione quote latte, oppure la battuta sulla Bindi del Presidente del Consiglio, o l'inchiesta dei preti gay su Panorama, c'è qualcosa così che un po' ti tocca, ti interessa? Non è che mi interessa. Sulle quote latte, la questione mi pare abbastanza chiara, mica tanto, eh. Mica tanto. Ma guarda, la gran parte, se tu vai in giro e chiedi scusi, ma lei ha capito qualcosa delle quote latte? No. Ma guarda, è molto semplice la cosa. Dai, raccontacela tu. Io da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo con Galan. Non mi capita spesso, ma in questa vicenda sono proprio assolutamente d'accordo con il ministro dell'agricoltura. Sì. Per lì è accaduto questo, che ci hanno. L'Unione Europea ha fatto delle multe. Stabilisce quanto si possa produrre. Quanto ognuno dei ogni paese possa produrre in termini di, diciamo, di produzione lattiera. Sì. Poi possiamo discutere se questa cosa sia giusta o sbagliata, perché secondo me non è che sia tanto giusta, però comunque sia, è una legge comunitaria, prevede questo e quindi dovrebbe essere rispettata. Gli italiani hanno firmato, come tutti gli altri paesi, un accordo e si sono impegnati anche ad accettare delle sanzioni nel caso in cui non rispettassero questi accordi. Certo. Ebbene, qui che cosa è accaduto? È accaduto che non sono state rispettate queste quote e quindi che, come noi ci siamo impegnati a fare, dovremmo pagare delle sanzioni per non averle rispettate. Il fatto è che non le vogliamo pagare e che addirittura c'è un partito politico che vorrebbe che il governo italiano, il quale ha firmato gli accordi, si diciamo impegnasse a tutelare i nostri diciamo allevatori in modo che non paghino queste multe. Il partito della Lega Nord. Esatto, la cosa non mi pare molto corretta, sinceramente. Bene, Sergio, mentre le ascoltatrici e gli ascoltatori chiamano il numero verde 800 24 00 24 presidiato da Giorgio De Luca, io direi allora facciamo questo collegamento extraplanetario. Riflessioni da Marte. Anche questa settimana, direi a osservare la Terra da quassù, da Marte, si ha la conferma che l'Italica penisola sia, oltre che il paese do mare e do sole, in specie d'estate, come negarlo, è il paese anche delle sentenze astruse, diciamo così, insomma, un eufemismo. Mentre infatti, come vi ricordai nei giorni scorsi, un imprenditore settantenne di Cagliari è ancora in attesa di una sentenza da 5 anni, appeso a questa sentenza da 5 anni, per un orrendo crimine, ovvero aver rubato il tappino dello pneumatico di un'auto, I giudici della Corte Costituzionale hanno deciso che chi è indagato per aver violentato una donna o un minore non deve essere automaticamente arrestato. Non è mica un mafioso, sottolineano i giudici della Consulta, perché mai dunque doverlo trattare nello stesso modo. Per quanto quello dello stupro sia un delitto odioso e riprovevole, spiegano i giudici, scrivono, quindi per quanto sia un delitto odioso e riprovevole, i fatti legati a tale delitto possono essere meramente individuali, cioè un solo uomo violenta una sola donna o un solo minore, mica quindi in massa come in una strage mafiosa, per esempio. Quindi dicono i giudici, reati meramente individuali e tali per loro connotazione da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la misura massima, cioè il carcere. Perché in effetti non punire gli stupratori, che so, con un soggiorno forzato alle Seychelles, per esempio, no? Come alternativa misura cautelare, o magari alle Maldive, che sono ancora più piccole, così quelli sono costretti a stare tra isola e mare, tra sole, mare, mare, sole, ogni tanto adocchiano qualcuna, ma se tutto va bene, niente più di così, così, quei poveretti li si condanna alla intollerabile noia del bagnasciuga. Ma la ministra delle pari opportunità, Carfagna, non ci sta. Non possiamo accettare una classifica della brutalità, dice. Per noi che avevamo approvato quella legge, chi violenta una donna o un bambino deve filare dritto in carcere senza nessuna scusante da subito. Ma questo, cara ministra, è puro giustizialismo, diciamolo. Uno non può fare neanche un errore nella vita, violentare una sola donna o un solo minore in un momento in cui proprio ne aveva voglia, che subito lo si mette in gattabuia. Non è mica un mafioso, dicono i giudici. E poi in un paese dove viene uccisa una donna ogni due giorni, la violenza sessuale, vale, via, è il male minore. Cosa c'è di strano? Cosa c'è di strano? Ecco, appunto, non stiamo quindi a fare le cose più grandi di quello che sono, ma in questi giorni in Italia si è sentito dire da più parti che il paese, pur con tutte le sue numerose magagne, ha gli anticorpi giusti per reagire. Sì, ma bisogna vedere contro i corpi di chi. Insomma, la situazione è difficile tra comitati d'affari di pensionati, donne morte ammazzate ogni 2 per 3, crisi economica, disoccupazione, un italiano su 2 che non partirà per le vacanze e quelli che ci vanno sono già bloccati in autostrada. Insomma, la situazione è stressante. Ma a chi vanno, secondo voi, a fare lo stress test? Alle banche, che tutto sommato dimostrano di gestirlo piuttosto bene, di avere gli anticorpi giusti, per l'appunto. Già, ma gli italiani come se la passano? Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Soffro lo stress, io soffro lo stress, faccio un passo e do il fiatone. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Roberta Giordano sempre con voi. Adesso cominciamo a commentare insieme allora i fatti della settimana e aiutarci come opinionista estemporaneo di oggi c'è l'inviato del Corriere della Sera Sergio Rizzo, che ha scritto numerosissimi saggi, tra cui anche con Gian Antonio Stella La Casta, e poi l'ultimo La Cricca, perché la Repubblica Italiana è fondata sul conflitto di interessi. Il numero verde è 800 24 00 24. Tra pochissimo ci sarà Carlo da Sesto San Giovanni, provincia di Milano. Vi volevo dare proprio un dispaccio di agenzia, una notizia che è arrivata in questo momento. La prima manche delle prove ufficiali del Gran Premio di Germania di Formula 1 sono state sospese a causa dell'incidente occorso alla Force India dell'italiano Vitantonio Liuzzi. Il pilota, per fortuna, è uscito illeso, appena uscito ha detto tutto ok, adesso le macchine sono molto resistenti, per fortuna, e la vettura è andata distrutta, quindi resistente la vettura per proteggere il pilota evidentemente, ma lei è andata distrutta e l'interruzione è durata 7 minuti e mezzo. Questo per aggiornarvi in tempo reale anche sulle notizie che man mano si aggiungono a quelle che già ci sono della settimana. Carlo! Pomeriggio Elisabetta. Pronto? Sì, sono Carlo, buon pomeriggio Elisabetta. Sono Roberta. Buon pomeriggio Roberta. Grazie caro, buon pomeriggio a te. Io vi faccio fare un passo indietro e sì, mi scuso, le sì, quote latte per non dimenticare. Il problema sorge quando Agnelli o comunque la Fiat decidono di fare uno scambio automobili contro latte. La Fiat voleva esportare in Germania e la Germania ci chiese di non produrre più latte. Quindi è il contadino che deve pagare le multe. Da questo punto di vista, se lo guardiamo oggi, si ha tutto il dovere di farlo. Ma quando anni fa gli fu detto che avrebbe dovuto produrre 50 anziché 100 e quel 50 buttarlo, perché comunque quel 50 l'avremmo importato dalla Germania, quel contadino si scocciò e soprattutto non pensò non immaginò come potesse fare ad andare avanti a vivere vendendo 50 anziché 100. Ecco perché continuavano a produrre 100, fecero quell'atto di forza che poi sfociò nelle multe. Carlo, ma tu sei un allevatore? Ma io ho vissuto in una zona di allevatori a est di Milano, una zona che era ricchissima di marcite, di foraggio e di mucche. E la mia infanzia l'ho fatta lì. E lì sono sparite le mucche, sono sparite le marcite, ma sono rimaste le centrali del latte. E soprattutto mi sono convinto sempre di più che tutto il latte prodotto in zona e comunque tutto il formaggio prodotto in zona, che comunque è rimasto inalterato come produzione, come quantità, è comunque tutto fatto con latte di importazione, perché queste centrali del latte sono comunque tutte in attività, ma non ci sono più le cascine piene di mucche come una volta. Carlo, sentiamo un po' cosa ne pensa Sergio Rizzo, che prima ci ha spiegato un po' dal suo punto di vista la questione quote latte. Che dici, Sergio? È possibile che ci sia stato questo compromesso, questo accordo di scambio tra noi esportiamo le macchine in Germania, quindi noi importiamo il latte della Germania? Questo io non lo so, sinceramente, ma non so dove sia scritta questa cosa. Detto questo, poi, il nostro ascoltatore ha probabilmente dice delle cose sensate, no, anche dal punto di vista dell'economia, proprio delle singole aziende che operano nel settore dell'allevamento. Resta il fatto che ci sono dei trattati, allora, e delle regole, allora dobbiamo decidere. Non le rispettiamo più le regole? Cioè facciamo tutti come facciamo da noi, no? In Italia le regole non si rispettano, ognuno fa quello che vuole, tanto poi ci sono i condoni e le cose si sistemano. Ma all'estero non funziona così. A Bruxelles non funziona così. E quindi noi dovevamo forse non sottoscrivere quell'accordo, però l'abbiamo sottoscritto. E quindi ci dobbiamo stare. Siamo vincolati a quell'accordo lì. Poi, diciamo, è comprensibile che un allevatore non tira avanti, no? Io ho visto anche delle cifre su quanto costa oggi produrre un litro di latte e quanto viene poi remunerata questa attività. E effettivamente un po' sproporzionato. Effettivamente fa impressione, però diciamo qui siamo in un'altra sfera di questioni, cioè qui c'è di mezzo una questione internazionale alla quale dobbiamo sottostare, insomma, ci sono questi accordi. Allora, io direi di dare voce, prima di far passare Anna da Varese, sempre al numero verde 800240024, arriva proprio adesso, anche qui in tempo reale, una dispaccio di agenzia. Sapete, ieri c'è stata quella tragedia di un uomo di Massarosa, in provincia di Lucca, che ha ucciso due persone nel suo ex posto di lavoro dopo essere stato licenziato. Notizia di adesso, un assicuratore di 30 anni ha ucciso il suo agente per paura di essere licenziato a Roma. L'uomo ha colpito l'agente con una mazza, poi l'ha buttato in una scarpata. È successo nell'Ariatino, quindi nel Lazio. L'uomo è stato arrestato e ha confessato. Questo succedersi di queste cose in questo periodo, insomma, piuttosto teso, diciamo così. Anna! Ciao, scusa se ti ho chiamato. Allora, perché? Ho seguito l'articolo della violenza sulle donne che non vanno in carcere. Allora, prima di tutto io metterei la castrazione chimica. Sì. A me dispiace, però io la metterei. Io la chiamerei inibizione farmaceutica, perché tutti pensano, subito associano la castrazione un taglio, no, di qualcosa di anatomico. Una bella pompata, una bella siringata dentro e via andare. Allora io dico, visto che loro non vanno in carcere, come li vogliono fare, non voglio metterli dentro, apriamo le carceri, li facciamo uscire tutti e siamo tutti liberi. Perché allora, chi tocca un bambino e chi tocca una donna non vanno in carcere. Allora, o castrazione chimica o il taglionetto in pubblica piazza, perché a questo punto noi donne non siamo più tutelate, noi donne e noi mamme con bambini. Io premetto che io ti dico la verità, io ho 3 figli e tranquillamente una bimba disabile. Quando ho letto quell'articolo sul giornale ho guardato in faccia a mio marito e gli ho detto: ma stiamo scherzando, stiamo arrivando su questi livelli in Italia. Anna, io devo dire che rimani in linea. Ho letto piuttosto impressionata questa mattina poi il racconto di questa ultima delle tante donne, 32enne, una ragazza, una donna, insomma, che è stata violentata ieri mentre correva a un parco di Torino, che poi è riuscita in qualche modo a divincolarsi, insomma è stata pronta e non succede a tutti, la paura in quel modo paralizza terribilmente. E lei dice: raccomando a questo, io non andrò mai più a correre da sola in un parco, raccomando questo a tutte le ragazze. L'ho trovato terribile, cioè una libertà che sembrava in parte conquistata, quella di essere al mondo e di muoversi nel mondo con un minimo di libertà da parte delle donne, invece di nuovo avere paura, ricacciarsi da dover sempre andare in giro con qualcuno. Io per esempio vado a correre, però insomma o ci si porta dietro qualcosa. Però mi sembra terribile questo autocensurarsi nella propria libertà, anche soltanto di fare una corsa in un tratto di un parco. Anna, ti ringrazio. C'è Ferdinando da Lodi, sempre al numero verde 800 24 00 24, per le notizie della settimana. Qual è la tua, Ferdinando? Pronto, Roberta? Niente, volevo solo rispondere a Rizzo, perché io lo sento sempre commentare in modo abbastanza populista il discorso del nullatenente. Sì. Allora, spieghiamo una cosa molto semplice, anche agli italiani, forse per far capire ai dipendenti che non è detto che chi viva bene debba per forza non dichiarare nulla. Allora, no. Il discorso è questo: se il signore nominato prima, io non sto facendo una difesa di quel faccendiere che vai a vedere che sicuramente è un delinquente, Carboni, che tutto quello è esatto. Io non faccio una difesa, io faccio una difesa in generale del fisco italiano, che prevede che se uno non ha un'attività proprio, ma ha tanti soldi accumulati nella vita, li mette in banca, questi fruttano e pagano le tasse, il famoso 12,5% in banca, questo non deve dichiarare nulla, eppure ha tanta disponibilità. Un altro esempio: se il signor Carboni ha un immobiliare dove ha 100.000 immobili tutti messi in questo immobiliare, lui non compare, se è un SRL o un SPA, lui non compare e non deve dichiarare nulla. Quindi è probabile che ci siano in giro dei miliardari che con lo yacht, poi è giusto o sbagliato che sia questo il fisco italiano che lo dovrà dire, che con lo yacht vanno, vedi il problema Briatore, che sicuramente si risolverà a favore di Briatore, perché mi sembra aver capito che sarà tutto corretto nell'operazione Briatore. Comunque, prendono questi yacht, li intestano delle società, ed è fattibile perché il fisco italiano lo prevede, dopodiché arrivano, come dice lei, in Toscana con gli yacht, ma non è che questi non pagano le tasse, questi utilizzano la legge italiana e quindi, come dice Rizzo, con le quote latte va rispettata. Ma è ora di mettere di fare, secondo me, del populismo. Però scusami, Ferdinando, perché... Ferdinando, adesso poi lasciamo rispondere naturalmente Sergio Rizzo, ma ti sembra che l'evasione fiscale enorme sia un grosso, grossissimo problema in Italia o no? Ma sono d'accordo, ma non va risposto col populismo. Cioè, va risposto con degli accertamenti più mirati, con dei controlli più mirati che sono fattibilissimi, ma non da parte, secondo me, dei giornalisti e anche Rizzo ormai economici, perché ormai Rizzo fa parte di quel ramo, con del populismo. Perché? Perché i dipendenti poi pensano che tutti in Italia, siccome hanno gli otte, va delle tasse, è così, non può dirmi di no. No, ma spiegate bene queste cose, cioè non si può comunque dire oggi, mi permetta, che Carboni è un evasore, non può, poi è un delinquente, per l'amor del cielo, i giudici vedranno, ma non lo potete vedranno dire oggi. Con Carboni non che se l'è cavata finora, forse se la ricaverà. Ferdinando, sentiamo la risposta di Sergio Rizzo. Sergio. Ma io veramente non, cioè, ho sentito delle argomentazioni un po', come dire, a cui non preferirei non rispondere, perché diciamo innescherei una polemica che non farebbe neanche bene ai nostri ascoltatori. No, perché? Soltanto un'osservazione. Abbiamo paura di niente. Un'osservazione. Sì. Se uno ha un immobiliare o ha 100 immobiliari o ha 100 immobili e riscuote degli affitti, mi spiace per il signor Ferdinando, ma la denuncia redditi la deve fare. Quindi già questo di per sé fa capire che c'è qualcosa che non va. Dopodiché Carboni ha dichiarato, al giudice ha dichiarato una cosa, ha detto, dice, io non è che non ho niente, ho delle cose che sono in uso a me, no? Quindi io non ho detto che è un evasore, dico che mi risulta piuttosto singolare, no? Che il nostro sistema fiscale consenta a una persona alla quale, per sua esplicita ammissione, per le cui mani sono passati centinaia e centinaia di migliaia di euro, credo che non l'abbia fatto per ragioni, come dire, di natura filantropica, ecco, sia possibile che il fisco non abbia evidenza di queste cose, perché non ne ha neanche indirettamente evidenza di queste cose. Attenzione, non è che se uno ha 700 milioni di euro in banca il fisco non lo sa, il fisco lo sa, perché ci sono, come diceva appunto il nostro ascoltatore, c'è il, come dire, il prelievo del sostituto d'imposta. Di conseguenza, e queste sono cose ormai tutte tracciabili, quindi il fisco è assolutamente a conoscenza delle cose che ha, come è a conoscenza del fatto se uno ha degli investimenti esteri, perché se uno ha degli investimenti esteri, non so se il nostro ascoltatore lo sa, ma vanno dichiarati. Comunque sia, se una persona ha soltanto qualche cosa all'estero, lo deve dichiarare. Deve dichiararlo, no? Quindi la cosa che a me francamente stupisce è che ci possono essere casi come quelli. Io non voglio mettere la croce addosso a Flavio Carboni, tanto più che in questa storia ancora non è chiarito nulla, no? Però certamente non posso evitare di mostrarmi sorpreso per le dichiarazioni di questo signore, insomma, rese davanti ai magistrati. C'è Laura dalla provincia di Modena. Laura. Sì, buongiorno. Buongiorno. Le sono molto grata di avermi chiamato, anche perché dissento dal suo commento sarcastico alla sentenza di Cassazione. Quella della Marziana? No, quella dello stupro. Ah, sì. Sì, ecco, Marziana ne aveva parlato, sì. Sì, prego. Esatto. Perché? Perché semplicemente lei, non penso che lei abbia letto la sentenza, prima di tutto. Poi in realtà la sentenza di Cassazione non dice che quelli che stupano possono stare allegramente fuori, ribadisce semplicemente come già... La Marziana parlava della misura cautelare, anche Mara Carfagna, la ministra dell'opportunità che è intervenuta ieri, diceva la stessa cosa. Ma nessuno l'ha letta la sentenza. Ma c'erano degli stralci. Nessuno conosce bene il codice, perché il codice italiano dice, il codice penale ben inteso, che scatta automaticamente la detenzione cautelare soltanto per i reati di mafia. Questo dice il codice. Però allora, c'è un decreto legge che era stato approvato, l'ha ricordato ieri Mara Carfagna, proprio su questa cosa qui, che scatti anche per gli stupratori, e poi ieri invece la Corte Costituzionale l'ha bocciato. Questo è sì, perché non è, come dire, bisognerebbe cambiare tutto un sistema di leggi. Non basta fare un decreto così sull'onda emotiva e certamente giustificata e giustificabile. E poi non è che basta stuprare una donna, è perché la mafia è un reato associativo che si commette in molti. Mentre non basta stuprare una donna per andare in carcere subito, dici, bisogna passare attraverso processo e altre cose. No, dici. Bisogna semplicemente passare attraverso quei sistemi automatici per cui uno viene fermato, passa davanti al giudice delle indagini preliminari che decide se deve essere applicata la misura oppure no. Tanti se la sono data a gambe, lo sai Laura, in questo senso, in questo modo. Anche, sì. Anche quelli del famoso delitto del Circeo, solo uno alla fine è stato un po' in carcere, poi è pure uscito, ammazzato altre due per ritornare. Sì, esatto, diciamo, quindi si è cominciato da lì. Laura, dimmi solo, sei avvocata? No, sono laureata in giurisprudenza. Ah, e quindi sei... Ma non sono avvocato, no. Però effettivamente, cioè, non è come la storia del famoso jeans, no? Che una donna non può essere stuprata se indossa il jeans. È stata resa ridicola questa, è stata ridicolizzata questa sentenza, ed è stato un peccato, perché è una pronuncia intelligente invece, ma le pronunce bisogna leggerle tutte. Laura, mi sembri piuttosto anticonformista, e per carità, legittimo come donna, dico, anche il tuo punto di vista, e mi fa piacere che tu abbia chiamato. C'è Danilo da Vimercate, quindi dalla Lombardia. Danilo. Buongiorno a tutti, buongiorno anche buongiorno, a te, Danilo. Roberta. Buongiorno. Dunque, io volevo intervenire invece sul discorso dei preti gay, sì, questi qui, le orgeri che fanno, eccetera, che possono fare quello che vogliono fare. Io noto una enorme ipocrisia anche nel popolo italiano. Perché che i preti siano gay, o se vogliamo chiamarli in un altro nome, o anche etero, cioè, penso che abbiano la loro sessualità comunque, sono sempre uomini, c'è, possono essere da una parte o dall'altra. Assolutamente sì. Io ho più di 60 anni, e da quando ero piccolino io che i preti la mano in mezzo alle gambe la mettevano, l'hanno messa anche a me. Solamente che io, fortunatamente, giudicandomi diverso in funzione dell'educazione avuto dai miei genitori, mi sono rivoltato e ho tirato una sberla quando mi è capitato, ma sono sempre esistiti, esisteranno e ci saranno sempre. L'ipocrisia sta nei genitori che non vogliono vedere determinate cose. Oggi forse i tempi sono un po' cambiati e magari c'è qualche come posso dire, qualcuno che accetta diversamente, ma dovrebbero eliminare questa storia. Gli oratori sono pieni di gente così. Riesco a capire i genitori che possono accettare una cosa del genere, che il loro figlio domani possa diventare gay. Non è gay, è omosessuale, cioè rapporto sessuale tra uomini. Vogliamo tra definire donne. Le cose come devono essere, o tra donne, vogliamo definirle come devono essere definiti. La parola gay, quando ero ragazzino, c'erano i Teddy Boys. I Teddy Boys erano i delinquenti, non erano i Teddy Boys, però la parola anglo-americana camuffava la storia. La stessa cosa gay. Gay che cosa vuol dire? Omosessuale, rapporti sessuali fra uomini. Allora, vogliamo accettare il rapporto sessuale fra uomini? Perché la differenza sta nel fatto che oggi sembra che i diversi siamo noi, non sono loro. I diversi sono gli eterosessuali, gli omosessuali sono quelli giusti, sono quelli che si amano. Ma che cosa si amano? Cerchiamo di dire le cose esattamente come sono. È una materia che mi fa terribilmente arrabbiare. Quindi Danilo, scusa, secondo te... Io dico l'omosessualità è un cancro. Un cancro. Voglio un cancro. Vabbè. Certo, perché non produce... Non produce niente, produce soltanto il godimento personale di una cosa che è completamente fuori da quella che è la realtà. Per me è un cancro e dovrebbe essere eliminato, siccome non voglio eliminare questi omosessuali. Che dici, li mettiamo tutti in un qualche... Ma no, ma che cosa da parte loro? Non un lager moderno. Non mi interessa però che si venga a dire che arrivato a un certo punto sono io diverso dagli altri, perché non lo sono, perché arriviamo a questo punto. Chi l'ha punto. Detto? Chi l'ha detto questo? Lo dice la società. Lo dice la società, dice che tu mi sei mette diverso. Sempre davanti a una situazione del genere. Va bene. I Danilo, gli allora... omosessuali ci sono sempre stati. E adesso stiamo lì che cadiamo dalle nuvole. Danilo, allora, Danilo dice che l'omosessualità è un cancro. Chi la pensasse come Danilo o diversamente, 800 24 0024, vorrei tanto sentire Sergio Rizzo, ma mi pare c'ha la scialuppa, gli è andato la scialuppa? C'è un problema col mare, stava ritornando dall'isola di Ponza. Vediamo se riusciamo a recuperarlo, potrei anche preoccuparmi nel frattempo, se no. E c'è Vincenzo della provincia di Lecco. Buongiorno Roberta. Buongiorno Vincenzo. Allora, io volevo intervenire sulla falsariga di Laura di Parma. Sì. Certo, però non posso passare sopra l'intervento. Sopra il cancro? Mi fa una enorme tenerezza quel signore lì, veramente. Guardi, provo... Danilo. Per usare un eufemismo, chiaramente. Provo davvero... Io sono un inguaribile eterosessuale. Però veramente non tutti sono perfetti, comunque ecco, sì, vorrà dire che chiederò perdono, ecco, nel senso, io ho trovato il tuo intervento, quello che la mia impressione è che un intervento riguardo appunto la sentenza della Cassazione sulle violenze abbastanza demagogico e populista, però questa è la mia sensazione, cioè l'intervento della Marziana, dici, populista. Quello che il tuo intervento, quando l'hai letto... Ma quella era da Marte, era la Marziana, non era quella. Allora scusa, la Marziana. Sì. E effettivamente, Laura, io non sono neanche diplomato, quindi sono andato lo stesso a dare un'occhiata su internet, perché effettivamente come era stata presentata la notizia era abbastanza... si parla della custodia cautelare. Sì, la misura cautelare. Basta. Certo. Allora, la custodia cautelare è stato solamente ridato al giudice il compito naturale del giudice, che è quello di giudicare se una persona deve andare in galera pur non essendo ancora stato dichiarato colpevole. Attenzione, pur non essendo ancora stato dichiarato colpevole. E di oggi la notizia di questa persona che è stata dichiarata innocente perché le due bambine si erano inventate tutte dopo 6 anni. E di oggi l'ho sentita sulla vostra... Sì, sì, quella è un'altra cosa. Lì si parlava anche di sospetti pesanti su questi indagati. Cioè, non dico la flagranza. Va bene, però parliamoci chiaro. Se è in automatico vuol dire che una persona... deve stare 6 anni, 7 anni in galera. No, la misura cautelare non prevede 6 anni, 7 anni. Quella forse era una sentenza ingiusta che poi dopo è stata ribaltata. Comunque, chiarissimo, Vincenzo, ti ringrazio. Al numero verde c'è Fabrizio dalla provincia di Modena. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Fabrizio. mi auguro che continui come un buon pomeriggio anche per Rizzo, visto che ha detto che sapeva nuotare proprio per cattive acque. Però insomma, poi io ci accerteremo. Volevo fare una precisazione che difficilmente emerge nei discorsi sulle quote latte. Le quote latte, nel momento in cui sono diventate una licenza a produrre, diciamo così, a produrre entro un certo limite, sono state rispettate da una percentuale che è ben superiore al 90% di quelli che sono gli allevatori. Quelli che sono i cosiddetti splafonatori, quelli che non hanno rispettato questo regime, sono un 5%, e in questo momento la politica sta cercando di tutelare questo 5% che ha infranto. Quindi una minoranza, dici tu, minoranza. Una piccolissima minoranza. Tra l'altro mi pare di aver capito che il rischio è che quelle multe, se non le pagano questi allevatori multati, poi ricadono sui contribuenti, un po' su tutti gli italiani, sì, mi sembra. Sì. Certamente. E l'altro aspetto è che quel 90-95% che ha rispettato le regole ha speso centinaia di migliaia di euro nell'acquisto di questa licenza della quota latte se voleva produrre di più o ingrandire e implementare l'allevamento. Questo a scapito di dell'innovazione dell'azienda, mentre questo 5% che non ha investito nelle quote latte ha investito nell'azienda, e ci troviamo oggi con un 5% che è competitivo sul mercato, anche perché adesso c'è un tentativo di colpo di spugna della politica, e il restante 95% che rischia di non essere competitivo sul mercato per questo. Senti Fabrizio, molto brevemente, tu cosa politicamente hai le tue idee o qualche orientamento? Sì, beh, certo. Ecco. Certo. Allora, leggevo in questi giorni un sondaggio di IPR per Repubblica.it che diceva che il PDL perde consensi, Berlusconi personalmente perde il 10%, ma anche il PD non ne guadagna, quindi non è che ne perde uno va dall'altro. Dove vanno secondo te questi consensi? Purtroppo questi consensi vanno su questi partiti come la Lega, che cavalca l'onda di questo 5% che poi la gente non capisce cosa c'è dietro, pensano che stia tutelando la popolazione in generale, e invece non è così. Io penso che i voti vadano sulla Lega e su altri voti a sinistra finiranno nuovamente su Di Pietro e così. Ho capito, grazie di questa analisi Fabrizio, grazie. C'è Alberto da Venezia, numero verde 800 24 0024. Pronti? Eccoci Alberto. Buongiorno. Prontissimo, buongiorno a te. Tanto complimenti per il suo modo di condurre. Grazie. Io volevo commentare un attimo quella telefonata aberrante che ha fatto Danilo Davi Mercate, Lombardia. Sì. Io sono un ragazzo, un uomo di 35 anni adesso. Ho frequentato per tutta la mia adolescenza gli oratori e non ho mai trovato nessun prete che abbia dato la benché minima dimostrazione di qualcosa che andasse di là del suo ruolo. A me dispiace che lui magari abbia avuto qualche esperienza, magari all'epoca doveva fare qualcosa invece di più concreto che una sberla così, ammesso che sia vero. E poi io col tempo mi sono accorto di essere gay e non ho mai avuto nessun tipo di problema. Senti, ma Alberto, hai il cancro tu? Scusa se te lo chiedo proprio così. No, nel senso che diceva Danilo che è un cancro e quindi magari le due cose coincidono. No, io posso solo augurare a questa persona, se ha dei figli, che i suoi figli un giorno si accorgano di essere gay. Perché non è che gay si diventa a dispetto di quello che lui pensa, gay si nasce purtroppo, nel mio caso, purtroppo. Nel caso di tutti i miei amici. Perché purtroppo? Purtroppo. Nel senso, non è che uno decide di essere gay, non è che domani mi sveglio, ah sono gay, che bello. Io direi Alberto che si diventi o che si nasca va bene comunque, insomma l'importante è che uno sia contento. Ma in ogni caso voglio dire che... Questo fa affermazioni che non stanno né in cielo né in terra, credo che si commentino da sole, insomma tutto sommato. Alberto, e con questo ti auguro tanta felicità, è un momento adesso topico, dobbiamo assolutamente... mancano pochissimi minuti e c'è la Valeria della Valle, non possiamo mancare l'appuntamento con la mia linguista preferita della Sapienza di Roma. Valeria, ciao. Eccomi, ciao. Senti, rubo solo mezzo secondo per fare una precisazione, visto che il Danilo che aveva telefonato spiegava la parola omosessuale come chi ha rapporti sessuali tra uomini. Ovviamente non è quella, con la persona dello stesso sesso. Ecco, dello stesso sesso, sennò ho paura che attraverso la radio diamo disinformazione. Giusto, e tu sei esperta in questo. Quindi tant'è che si parla di omosessuali uomini o donne, voglio dire un'omosessualità maschile o femminile. Certo. Sarebbe sbagliato propagare notizie sbagliate proprio linguisticamente oltre che da altri punti di vista. Siamo d'accordo. Quindi Valeria, invece la parola di questa settimana, a proposito si è parlato molto di Carboni, faccendiere, no? Una volta negli anni 80, la P2, sì, la questione Calvi, è venuta fuori faccendiere. È venuta fuori faccendiere proprio grazie, direi, a Flavio Carbone, se almeno un merito ha. La parola deriva da faccenda, quindi una parola molto alla buona, no? La faccenda è una cosa da fare, da sbrigare, e anticamente faccendiere non aveva un significato negativo, voleva dire mercante, trafficante, ma insomma non c'era nessuna condanna. Poi dal 500 il valore della parola ha cominciato a cambiare, tant'è che Machiavelli l'ha già usata col senso di trafficante, di persona che fa maneggi, e con questo significato l'hanno usata in moltissimi, per esempio anche Manzoni. Il significato che ricordavi, quella appunto legata al fatto che qualcuno per conto di un imprenditore privato svolge con metodi poco leciti un'attività di mediazione tra un imprenditore e la pubblica amministrazione, ecco, questa nuova sfumatura è nata appunto negli anni 80, quando hanno cominciato a diffondersi i faccendieri. Allora, come al solito, che bilancio possiamo trarre da quello che ho appena detto, solo dal punto di vista della lingua? Ma che tutta una serie di espressioni, certo, espressioni che nascono nel linguaggio giornalistico e poi si impiantano nella nostra lingua, nascono per indicare personaggi, situazioni, gruppi non esemplari, però nascono proprio da fenomeni negativi. Penso solo a furbetti del quartierino, i compagni di merenda, l'utilizzatore finale, no? Oramai tutti usiamo questa espressione, per non citare, visto che oggi c'era Rizzo, anche se poi è c'è ancora, penso che gli abbiano tirato un salvagente, adesso poi verifichiamo. Benissimo, allora proprio grazie a lui, grazie prima a Stella e con lui Rizzo, parole come casta e poi come cricca hanno assunto nuovi significati, erano parole antiche, ma che grazie a loro, grazie al nuovo impulso, al nuovo valore che gli hanno dato con i loro libri, ecco che la nostra lingua in fondo si arricchisce di nuovi valori, di nuovi significati. Grazie mille Valeria. Prego, della Valle. E adesso verifichiamo, Sergio Rizzo ha avuto la scialuppa, un salvagente, un occhetta, un qualcosa, Sergio? No, non sono assolutamente annegato. Meno male. Senti, purtroppo ho affascinato da Valeria, devo dire, che mi ha aperto un mondo con questa sua dissertazione sul termine faccendiere, di cui le prometto che farò tesoro. Bene. Sergio, senti, abbiamo 22 secondi, mi dicono, mi assicurano, abbiamo parlato di P3, di quote latte, di inchiesta sui preti gay, di mozzarella, del significato di omosessualità, faccendiere, di qualsiasi cosa. Come concludi, diciamo, in quei 3 secondi e mezzo, Sergio Rizzo? 3 secondi e mezzo, si dovrebbe tutto quello che sta successo, che se vogliamo uscirne dobbiamo rispettare le regole, fare un po' più buonini, ecco, tutti quanti, dalle cose alte fino alle cose meno edificanti. Grazie Sergio e buona navigazione, buon approdo a te, grazie Sergio Rizzo con il suo ultimo libro La Cricca, e da Roberta Giordano Sereni Orizzonti a tutti.